Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Fra i tanti spauracchi dal punto di vista fiscale di cui ogni tanto abbiamo la disavventura di raccontare, c'è la cartella di Equitalia. Ne parlano spesso con questo titolo, con questa definizione, appunto, giornali, telegiornali e radio. Noi raccontiamo una vicenda che riguarda questo aspetto, ma fortunatamente a lieto fine. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, arriva una cartella di Equitalia per delle multe non pagate e voi siete riusciti a ottenere l'annullamento delle multe. Ma partiamo dall'inizio. Cosa riguardava questa cartella di Equitalia? Sì, è innanzitutto una cartella di Equitalia del 1900 euro che un signore di Mestre ha ricevuto poco tempo fa, di cui si è rivolto all'Adico, in cui si trattava fondamentalmente di una cartella per multe non pagate, il quale sostanzialmente poi con l'aiuto dei nostri esperti siamo riusciti ad annullare, a far annullare e oltretutto condannare, in questo caso il giudice, condannato la prefettura a un parziale risarcimento anche delle spese legali che il socio ha dovuto sostenere. Erano multe per violazione al codice della strada, ma 1900 euro che cosa avrebbe commesso? Erano infrazioni grosse oppure c'erano anche delle sovrattasse in aggiunta? Beh, erano infrazioni a cui poi, non pagandola e facendo ricorso e poi per tutti i soliti meccanismi burocratici poco chiari, ma sempre più complicati, in cui poi si raddoppia nel caso che cadano i termini, poi diventa, poi deriva un'ulteriore sanzione amministrativa se non hai dichiarato chi guidava e per cui si doveva ritirare la patente. Insomma, tutto un processo che alla fine comunque si è rivalutato fino a questo importo, ma nello specifico si trattavano di due multe che non dovevano essere pagate per due semplici ragioni. La prima perché una di queste due era già stata annullata dal giudice di pace tempo fa. La seconda in quanto contestata perché è arrivata dopo i 5 anni e quindi prescritta. Ma sulla base di queste due ragioni comunque la prefettura ha stimolato Equitalia al pagamento e di conseguenza davanti al giudice di pace la vicenda si è conclusa favorevolmente al nostro socio, quindi che non si è visto pagare due multe e sostanzialmente anche riconoscere gli importi delle spese sostenute per difendersi. Ecco, qui entra in ballo una valutazione sulla lentezza della burocrazia e sulle comunicazioni che tra un'istituzione e l'altra ci sono. Se una multa era stata annullata, come mai un altro ente, sempre statale, non lo sapeva? E poi quella che era prescritta, perché mandare la richiesta del pagamento di una violazione che in realtà appunto la legge considerava di fatto cancellata? Sì, questo purtroppo è la solita vicenda che non è la prima volta che capita, che noi dobbiamo commentare, in quanto è paradossale che proprio delle istituzioni come giudici, prefettura, Equitalia, che poi vabbè in questo caso magari ha fatto solo da riscuotatrice, ma fondamentalmente non è... È strano come un cittadino debba rivolgersi davanti a un giudice di pace, tra l'altro per l'ennesima volta, a fronte di una ragione che avrebbe in maniera evidente, palese, ma che fondamentalmente per farla valere deve per forza percorrere per queste strade là e quindi mettere in mezzo anche un legale. E ciò certamente, se trovi un cittadino che è determinato nelle sue ragioni, questo porta avanti anche fino alla fine le stesse, altrimenti purtroppo il sistema molte volte tende a scoraggiare il consumatore e indurlo a pagare proprio per evitare tutto questo iter che veramente è a volte demotivante. Alla fine appunto deve essere sempre il cittadino, il consumatore che deve dimostrare la propria innocenza, anche se le carte già di per sé lo dicevano, come voi alla fine dopo un percorso non credo troppo semplice siete riusciti a fare. Sì, anche qui Mirko la penso esattamente come te, perché voglio dire, se una persona ha una sentenza di un giudice dove gli annulla una multa e Equitalia ti manda tramite la prefettura doverla pagare, io voglio dire, siamo veramente arrivati al paradosso. Il problema è che questi diciamo signori dovrebbero, secondo me, anche assumersi delle responsabilità quando si sbaglia in questo modo, perché veramente poi quando c'è a che fare con queste cartelle, con legali, con tribunali, certo si perde anche un po' di serenità, perché chiaramente poi tutta la vicenda rischia anche di limitare, già una multa, e tu fai un ricorso al prefetto che si raddoppia, che poi ti deve un'altra sanzione amministrativa, che poi devi tornare davanti al giudice, che poi magari te l'annulla, che poi interviene la prefettura, che poi interviene l'Italia, che poi interviene il nuovo giudice, cioè capiamo che veramente si dovrebbe, secondo me, trovare delle soluzioni che siano più favorevoli ai cittadini e soprattutto evitare che queste cose capitino. La spesa non è solo in termini economici, ma anche in termini di tempo, perché, come dicevi, ci vuole anche determinazione per arrivare a dimostrare di avere ragione. Un consiglio che possiamo dare per questa vicenda, quando e se ci dovesse capitare di avere una cartella di Equitalia, mi viene da pensare: meglio tenere tutta la documentazione possibile, le controprove, insomma, le pezze giustificative, meglio averle. Sicuramente quello di conservare è la cosa più importante. La seconda cosa è quella di non spaventarsi, ma come signore rivolgersi, per esempio, come lui ha fatto all'Adico, ma magari a qualcuno, a chiunque, e magari andare a fondo prima di dover pagare. E in terzo luogo ricordarsi sempre comunque che quando arrivano ingiunzioni o ci sono multe da dover pagare, ci sono dei termini ben precisi, i quali rischiare di ignorarli poi non permette più la possibilità di opporsi e magari fare anche ricorso, quindi mai ignorare questo genere di comunicazioni, perché purtroppo questa strategia non è una strategia che paga. Vicenda dunque che si è conclusa positivamente, come quella che racconteremo tra un paio di giorni, di cui appunto vi dobbiamo la conclusione. Ne parlavamo qualche settimana fa, una tintura di capelli che non era stata gradita, e anche su questa si è arrivati a risarcimento. Grazie all'Adico, al presidente Carlo Garofolini, tra un paio di giorni ci risentiamo. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.